tasto, lui fa. E per non registri? E registro, sì. In automatico? Non è solo parlare. Poi a una certa lui praticamente streama e registra insieme. Okay. Poi va a finire su un altro file e poi dopo lo metto in podcast e così si vede lui. E bisogna stare vicini. Vicini a che? Ai microfoni. Sì. Parecchio. Abbastanza. Prendilo un microfono panoramico. Buonasera a tutti, siamo qui in diretta dalla stazione del Circolo Polare Artico, sita in Firenze, puzza di petrolio e ghiaccio. Sembra una crack house. Vabbè, adibita, fu crack house. Fu crack house, meno male. E non lo è più per fortuna, siamo qui in diretta con tre bravi guagliungelli da Sesto City. Presentatevi un po', dai. Marzo. Ciao a tutti, sono Marzo. bella. Io sono Duccio e non ho soprannomi. Buonasera, io sono Edipe da Inneto, ricordiamolo, perché Sesto Fiorentino è un po' generico per i miei gusti. Buonasera a tutti. Meglio specificare giustamente Inneto. Siamo qui riuniti come vecchi tempi a ascoltare della musica. Ho sbagliato mouse. E quindi questi bravi ragazzi hanno portato un po' di pezzi punk, possiamo dire punk, ma possiamo anche non dirlo, punk hardcore e molto un bel mischiume. E iniziamo col primo pezzo. Chi inizia per primo? Il Dibe. Avvicinate il microfono, i nostri potenti mezzi. Partiamo dal pezzo più vecchio, un po' di hardcore cosiddetto melodico, però secondo me c'ha un gran tiro. E da About Time dei Pennywise. I've got a question for all you sinners. Have you ever wondered into some of the life? Quick adventure, not much to mention. A slow procession leading us to die. Is there a heaven, a distant valley, a golden meadow waiting for us in the sky? No one right answer, spirits are broken. Still I just can't help but wonder why. Seems like a tragic waste of time. Who cares what happens when you die? Life's too short to wonder why. Get on with your churches and holy temples, they all conspire to tell me how to live my life. And no religion or new theism could ever provide proof to quench my mind. And now I wonder, who's commander? Is there a heaven waiting for me when I die? No one right answer, spirits seem broken. Still I just can't help but wonder why. Seems like a tragic waste of time. Who cares what happens when you die? Life's too short to wonder why. Get on with your life. tell the difference. Too many abstract thoughts now wrestle in my mind. Through darkness, somewhere should be waiting. A final truth to shower in the pride. The birth of wisdom and tell the glory. This every night should kill, I found out it was all a lie. The one right answer, spirit seems broken. Still, I just can't help but wonder why. Seems like a tragic waste time. Who cares what happens when you die? Life's too short to wonder why. Get on with your life. Your life. Bentornati a tutti. Bentornati alla revancia su Radio Wombat. Stavamo rimembrando vecchie cose del passato e vecchi sketch. Infatti, una piccola introduzione sul perché ci sono questi tre loschi figuri da Sesto Fiorentino. Perché tempo addietro, fin da tantissimi anni fa, abbiamo iniziato a girare per concerti a Firenze e in tutta più o meno la penisola insieme, quando eravamo pischelli, si parla di 10 anni fa e più, e mi faceva piacere... Alza! 12, 13, quanti? 14? 14, 15? 10 anni fa ero già all'università, 10 anni fa. Ah, è vero, porco Dio! Ma di più, 14, 15, 16 forse, quando è che siamo andati a vedere... Diciamo dal 2002 in avanti, dai. Vabbè, sì. Dal 2002 in avanti, per quelli prima ci accompagnavano i genitori, tipo i Green Day nel 99, 2000. Sì, quando siamo andati a vedere... come si chiamano quelli... I Guano Apes. Alle medie, i Guano Apes con le mamme, vabbè. Insomma, vecchi compari, ma non solo, tuttora compari di scorribande per posti... occupati, locali. Marzo è sposato, ha figli, purtroppo lo vediamo di rado, ma insomma i suoi impegni familiari ha messo su famiglia. Marzo, di qualcosa a tuo discapito. È vero. È vero, tre figli a carico e tutte cose. E niente, abbiamo iniziato a parlare ridendo perché stavamo rimembrando uno sketch successo nel 2003-2004 secondo me. Sta? Primo Fast Festival, tipo il secondo in Scintilla a Modena. A Modena, sì. Sì, 2004, l'anno prima di quello di Disprezzo. Sì. 2004. Sì, praticamente siamo andati a questo concerto io e Marzo e Duccio, prima volta in Scintilla, i primi concerti fuori, punk grossi. Scherzo, arriva io e Marzo, avevamo una fame boia. Dopo 2 ore, cioè perché c'è scritto inizio alle 16 e noi, ti ricordi, si arrivò alle 16, sì. Non sapendo che i concerti iniziavano. Ovviamente non c'era nessuno. C'era solo noi e i gruppi, che suonarono i cosi, quelli giapponesi. Ah, Beyond Description. I Beyond Description, ci saranno noi e loro e basta. Giapponesi e svizzeri. Ci avevano la bandana del Giappone, la maglietta degli Iron Maiden, e noi grandi, focatissimi. E niente, dopo 3 ore avevamo fame, tantissima, e... insomma, dobbiamo... Abbiamo uno sketch assurdo e abbiamo convinto Duccio che non, la cena non c'era, non ci fosse, insomma. E quindi siamo andati a giro per Modena, in mezzo alla nebbia, più totale, a cercare un bar dove mangiare un panino marcio. E si mangiò, mi ricordo, un panino alla mortadella, frescissimo. E poi si tornò lì e la cena c'era. Ma questa cosa è che noi ci inventammo, insomma, e la cena non... Non ci sarebbe stata, Duccio non la sapeva, l'ha scoperta oggi a distanza di 13 anni. Ma... Sì, no, infatti, lasciamo perdere, è meglio. Cioè. Poi, quando parti il pezzo poi le chiediamo in privato. Quegli 8 euro vanno gravato sul futuro... sul futuro economico di Duccio. Va bene, adesso andiamo avanti con un altro pezzo, dai. Inizia, Duccio è stato preso di mira e sta a lui scegliere un pezzo e ci spiega anche un po' perché. Va bene. Nonostante i pezzi li abbia scelti molto accuratamente. Allora, adesso mettiamo, visto che si parlava di vecchi concerti, un pezzo dei Bones Brigade, che sono un gruppo americano, non so se esiste sempre. No, si sono sciolti, mi dicono, dalla regia, che faceva trashcore potenti. Che ci siamo e che vedemmo, a Pisa nel 2004, per noi erano sconosciute, 2006, fu un concerto tra quelli più divertenti a cui ho mai partecipato. E dietro un pezzo di Limp Bizkit, invece, che insomma... Ti rappresenta. Che ricordano un nostro caro amico con cui mettevamo la musica in quel del CPA. Salutiamolo, ragazzi. Dai. Ciao, salutiamo Pietro. Pietro di Milano. Vai, dai, vai, mettili. Tornati in diretta su Radio Wombat con un Marzo al telefono agli appuntamenti di lavoro perché deve mantenere la famiglia e quindi si iscrivono a tutte le ore del giorno e della notte. Dive sta pisciando in una bottiglia invece perché qui a causa non c'è il bagno. Certo, è una bottiglia di Moretti piena di piscio che ci sta riscaldando tra l'altro. Mettiamo vicino. Le prove in cantina. No? È vero. Mettiti più vicino così ti sentiamo, i mezzi a disposizione eccoci sono qua, pochi. Eccoci qua. E adesso, Marzo, ci sei? Hai venduto le azioni, bond e tutte cose? A posto, ho svoltato. No, voglio introdurre un secondo un pezzo che tanto, cioè, lo conoscete tutti, quindi Bad Brains, Serinon, è un pezzo che sento molto vicino per tanti motivi e addirittura, insomma, me lo sono pure tatuato, la scritta. Si è fatto pure dread. Diventato anche omofobo. Rastafarianesimo tipico della mia vita. E mettilo Ivan, fallo partire. When I'm feeling all, I'm moving, when I'm moving on, Attenzione, attenzione. Siamo tornati in diretta qui dall'iceberg Novosibirsk in provincia di Corsica. E adesso andiamo avanti, dai. Andiamo avanti con un altro pezzo che sceglie Dibe. Eccoci qua. Questo pezzo qui è in ordine di tempo, è il secondo più vecchio, è del 99, del primo disco dei Whoop Time di Torino, Nessun Rimorso. Ci sono particolarmente legato perché è il pezzo con cui hanno aperto il primo concerto con cui sono andato a vedermelo per cazzi mia con il treno e insomma cazzi vari. E niente, è un gran pezzo, mettiamolo, dai. Dai, yeah. Non mi nascondo, nessun eroe, non ho bisogno, nessun rimorso, non mi vergogno, nessun rimpianto, non mi nascondo, non ho paura del tuo giudizio, non ascolto i tuoi lamenti, ignorando la tua sporca lingua, metto fine ai miei tormenti. Bandiera, non mi nascondo, nessun eroe, non ho bisogno, nessun rimorso, non mi vergogno, nessun rimpianto, non mi nascondo, non ho paura del tuo giudizio, non ascolto i tuoi lamenti, ignorando la tua sporca lingua, metto fine ai miei tormenti. Siamo appena tornati in diretta su Radio Wombat. Ti chiamano. Mi chiamano dalla regia, ma... C'è la pasta pronta. Regia, ancora non sono pronto. È un barbone che c'ha bisogno dell'accendino per accendere un fuoco al letto di Ivan. Che bomba. Allora, volevo solamente dire che è bello mettere pezzi che durano più di 2 minuti perché ti permette di andare in bagno e prendere le cose che ti servono. E... Beh, vi siete sentiti Whoop Time, adesso Duccio ci illustrerà il suo secondo pezzo. Sì, cambiamo un attimo genere, si fa un salto. Sì, mi suggeriscono di stare più vicino al microfono. Cambiamo un attimo genere, si passa al rap, altro genere, per certi versi comunque abbiamo condiviso negli ascolti, sempre rap di un certo tipo per fortuna, e questo è un classicone, forse uno dei classici dell'hip hop underground. Siamo tutti zitti ad ascoltare Duccio come se fosse un prete. Più famosi cazzo di maestro a livello italiano e basta sempre, no, in realtà sono di Bologna, Neffa stava a Bologna quando suonava con loro, e insomma sono i Sangue Misto, il pezzo è Cani Sciolti. C'è poco altro da dire. Che dura tantissimo, abbiamo il tempo di andare tutti in bagno, tra finalmente. L'altro. Vai, vai. Alla party. Abbaia. We'll be right back. sulla traccia cico, senti come suona. Vengo da una zona dove l'aria non è buona. Fumo la mia porra, non mi pungo con la spada. Caccio la mia rima per i cani sciolti della strada. E intanto il numero dei cani sciolti sta salendo. Se ancora non li vedi è una questione di tempo. Cani sciolti nelle città alzano il volume con il boom boom cha. Ci credo no, CHICO, non lo so. So di FIWSO che ci sarò. Però quel giorno quando viene sarà come tanti, con le iene di dietro e i cani sciolti davanti. Pam pam, cico, musi di pantere, ci annusano il sedere. E non c'è molto da sapere, se la vita è mia lascio che sia. Cane contro cane quando è il cane della polizia. Preso per il culo dalla mia TV, meglio non vedere come Mr. Magoo. Resta un'opinione personale, io non sono carne da campagna elettorale. E parli bene ti conviene, cico, non ti affronto più. Mi dici che sei nuovo ma sei sempre tu. E allora levami le mani dagli occhi, santi Dio, sono sempre io. Anche se scrivo e sto nel mio, c'è una cosa che so e che non ce n'è. Stare nel tracciato non funziona più per me. E una soluzione deve esserci anche qui. Cerco la parola chiave insieme a D&D. Cani sciolti sotto il sole, quando fuori piove. Quando tutto è fermo c'è qualcuno che si muove. Sono il cane sciolto, lo straniero della mia nazione. E fuori dal recinto resta la mia posizione. Cani nella strada, nella città. E tutto sembra uguale ma qualcosa non va. C'è sempre un buon motivo per tirarli su. Ma i cani nelle strade sono sempre di più. Cani nelle strade, nelle città. E tutto sembra uguale ma qualcosa non va. Escono fuori dal gregge, escono fuori come schegge. E cico puoi giurarci quando corresco fuori legge. Perché devo svoltare i tempi duri. Seguo la mia idea visto che ancora oggi come ieri vivo un clima di tensione negativo. Perciò non venirmi a dire che sono ostile, che non c'è un motivo. Le radiazioni han fatto danni su chi è cresciuto negli ultimi vent'anni. Abbiamo avuto il piombo, il fango ed ogni giorno la dose quotidiana di merda che ci cade attorno. E i bambini sono stati contagiati, nati patinati, figli ingrati. Ora, dai un'occhiata al mio libro di storia. Un paio di episodi che ho imparato a memoria. Ti resta un buon motivo e non puoi più tirarci giù. Tocca che chiami le divise blu. Per darci addosso non serve che un pretesto. Hanno la divisa, il manganello e tutto il resto. E non importa la domanda che un baraba mi fa. Perché se gli rispondi in ogni caso non gli va. Comincia a dare in testa e quando picchia picchia duro. Vuole far cantare Forza Italia lo straniero. Hanno la faccia come il culo e loro un trucco vecchio all'occhio. Quando sparano nel mucchio, dico non ce n'è, non puoi beccare i cani sciolti. Noi parliamo piano mentre ci muoviamo svelti. C'è una nazione in fiamme tutto intorno a me. Cico, indovina cosa sulla traccia qui chi c'è. La Dila e la Dila in compagnia delle sirene. Non si tiene, ho sangue misto nelle vene. Mi muovo sulla traccia ed è una storia pesa. Io con i miei fratelli per legittima difesa siamo cani nelle strade, nelle città. E tutto sembra uguale ma qualcosa non va. C'è sempre un buon motivo per tirarli su. Ma cani nelle strade sono sempre di più. Cani nelle strade, nelle città. Siamo tornati in diretta su La Revancia in da Radio La Wombat House. Un posto freddo tanto quanto Novosibirsk il 6 di maggio con esatto. La neve a 2 gradi. A proposito, sponsorizzate il nuovo video, no? Sponsorizziamo tutto questo per sponsorizzare il video di Hans Siberiana. Sulla pagina Facebook di Ivan trovate il link. Tanto lui è l'uomo più social del mondo. No, del mondo no. di Frozen Island di sicuro. Va buono, diciamo, concilia il sonno, diciamo. È un video molto movimentato, movimento... se ci avete, sì, non so, sì, bypass o roba del genere. Dura quanto una puntata di una serie TV, ma non è una serie TV. Infatti ci spacchi molto sulle palle. DIY. Ora meno duccio. Ora meno duccio, siamo a meno duccio. Come il come grado... Adesso che si mette? Dai. Adesso continuiamo sul rap. Mescoliamo un po'... Che palle! Il rap alle schitarrate e mettiamo Gran Final, Noyz Narcos, Non Dormire, 2005. Un disco che mi ha cambiato la vita. Davvero. Ho cominciato a drogarti, Marzio, che hai fatto? Quello mai, però... Quello mai... È un disco che mi ha buttato sul rap. Ci abbiamo pensato noi, non mi preoccupate. È un disco che mi ha buttato sul rap che prima non sentivo. Vabbè, c'è un po' di punk qui dentro, dai. Ce n'è tanto, DIY. Sa, sa, sa. Oh. Perché non ti senti così, non vivi così, non scrivi così, non dimmi sì che è tutto così. Finisce tutto presto qui, qui, dormo col mostro sotto al letto e sono ancora qui, qui. Odio il lunedì, il martedì e il mercoledì, finti G, la musica R&B e il ghiaccio nei drinks. Air Max e Blue Jeans, Serpax del G, bella sì. Fotti con il truce clan, Dream Team, Franca il mio playground, Narcos e Stan, sono bastardo. Leggendari come Dave Lombardo, gira al contrario la mia merda e non ci sta ragione perché io la perda. La mia musica è per gente sorda. Tu non la puoi sentire se non senti il sangue scorrere sulle cucine del discolchi del vinile. Cerca tra le righe delle rime, lecca la copertina del mio disco e fatela salire. Uno per la grana, due per la gloria, tre per il mio clan di figli di puttana che entra nella storia, nella DeLorean col Manuel. Col piede sul pedale giochiamo con le forze del male. Cercami sopra le corde della Fender, a te la vita, a me la morte. Da rapper mi frega cazzi, tranne che dei ragazzi con cui sono cresciuto tra i palazzi a sfondarmi di canne. SB clip del trick suicida, una bambina che grida la vita è finita, un'ascia disseppellita, una ferita sul gomito, un risveglio in una pozza di vomito. Narcos rap al microfono, Seth produce questa merda per spaccarvi il monitor. Beh, diventa microscopico il tuo stile, Narcos noise, truce il post, non dormire. Siamo tornati sulla revancia, tutti cambiati. Sento la mia vita cambiata. Non so voi, ma ho scoperto delle cose. Che cosa ho scoperto? Ho scoperto che dobbiamo andare avanti con gli ultimi tre pezzi di questi tre simpatici guaglioni sulla traccia. Prima che ci caschino le gambe dal freddo. Prima che si congelino i nasi. Di Bejan non parla più. Cioè. L'abbiamo per... l'abbiamo per... gli facciamo gli occhi con i bottoni come pupazzo di neve. No, tanto no. Il radio non si vede se è morto. Prendiamo in mano la situazione. E a proposito di cambiare la vita, il prossimo pezzo ha cambiato la mia vita, ma non relativamente alla musica, in quanto, perché me lo ricordo, era il periodo che ho iniziato a lavorare. E uno ha visto lì, è Pischello, scuola, no, vaffanculo, vuol lavorare. Poi vai a lavorare e dici, madonna... era meglio se rimaneva a scuola. E questo è stato un pezzo, il periodo che mi dava un sacco di forza, un pezzo OI dei Duap, un gruppo romano che boh, ora ogni tanto fa qualche reunion, ma mi sa che attualmente non sono da molti anni. E niente, è un pezzo insomma per chi si fa il culo, per chi insomma si alza tutte le mattine e vai così. Dai. Se accorgerà più nessuno, se siamo Bene, bentornati su La Revancia, qui su Radio Wombat, in cima a un iceberg dove fa meno 12 gradi. Andiamo avanti e con l'ultimo pezzo, no? Cioè l'ultimo pezzo del giro, no? Sta a Duccio. Sì, sta a Duccio. Sta a me. Il penultimo. Sta, siamo in esecuzione. Sta sembra. A me anche questo pezzo famoso. Io non ho aneddoti a riguardo, anche perché loro purtroppo non li ho mai visti suonare. Invece in marzo siamo andati a vederli un mercoledì. Un accollo unico. Quanto che cazzo era? 2006-2007? A Milano? 2006. Sorpresone. Non lo saprà nessuno. 2007 all'Alcatraz. Di mercoledì. Ti ricordo, io lavoravo, dissi di stare male per andare a vedere se usata al Tendency. Che se l'ha svelato. Sì, insomma. E sono... diciamo... È vero. Ecco. Scusate. E al ritorno io mi ero abbioccato mentre guidavo tranquillamente. Ah, sì? Io dormivo, non lo so. Ivan, da buon compare di viaggio, se la dormiva pure lui. E oggi... è un miracolo se siamo ancora qua. Questo... oggi escono tutti gli altarini di 10 anni fa. Quindi preparati. Di Modena potevamo stamparci tranquillamente su un guardrail. Potevamo non essere qui. Peccato. Invece purtroppo siamo qui a dire cazzate, a stare al freddo e a sentire, però a sentire la bella musica. Vai, quindi, che allora, quindi ora vanno su Suicidal Tendencies, dal disco Join the Army, e chi non la conosce c'ha i capelli come Ivan. Io già ho dei bei capelli. Vai Ivan, lasciamo perdere. We'll be right back. Ed, fine. Discorsi seri. Discorsi sulla musica, importantissimi. Sulla vita. Sulla vita, sì. Sulle minchiate, su... Nessun altarino è stato scoperto in questo, tra questi due pezzi. Quindi andiamo avanti con... L'amico di Martucci. Era l'amico di Marzocchi. Che abbiamo ribattezzato nell'amico di Marzocchi. E Sesto, la canzone. Sì. Che fondamentalmente puoi sostituire... La città con qualsiasi città di provincia. E dire quanto fa schifo e quanto è brutto e quanto è allenante viverci. E sentirtela proprio. Farci un pezzo. Capiamo, ma loro c'hanno la laguna. Che noi ci sa la piana. Sì, più o meno. Ognuno c'ha le sue. È umido qua. Vabbè, dai, Mestre, il mio di Martucci, perché questa canzone? Beh, è un gruppo che spacca e spacca i culi e ce li siamo pure visti l'anno scorso, mi sembra. No, sì, un paio d'anni fa, forse. Sì, ma anche 4 anni fa. Vabbè, in quel di Parma per la reunion. E cioè, avevi 15 anni, Marzo. Trasferta e ce li siamo visti volentieri nuovamente. Dai. Sesto ti odio, Sesto ti amo. Esatto. È un po' il succo della periferia. Duccio se la ride perché è contento. Lui sì. Se n'è scappato. C'ho la mascella, si contrae per il freddo, non la riesco più a tenere. Va buono, andiamo. Abbiamo deciso all'unanimità di scegliere un pezzo tutti insieme. Le grandi Bloody Riot. Che ricordiamo il compianto. Come? Sì, grandissimi Bloody Riot, anche un ricordo al compianto per Cibaldi che ci ha lasciato un po' di mesi fa con questa mitica canzone di periferia e di provincia. Si ridono, i figli hanno per culo alle spalle, guardali. Ricordiamo la serata al SARS di altri 15 anni fa, situazione. Era 2004, era estate 2004. Sì, super estiva. A Viareggio c'era veramente un monte di gente, direi mezza Italia penso si possa ricordare quel festival là. Sì. È successo di tutto di più, teste spaccate, risse, bottiglie, tutto. Gente che molto scottava punk, al palco. Molto sì, punk. Sì, sì. Punk. C'era anche Bull Brigade. C'era anche Tozzini, guarda. Sì, c'aveva 12 anni. C'aveva 8 anni, ma c'è. Mi sembra arrivi qualcuno, ma non arriva nessuno. E noi invece vi proiettiamo into the Teppa Life. Spaccate sulle guardie, stanno ammazzando i testi in più. Spacca tutto, distruggi tutto, sei un terrorista. Porti la tua vita, vita legale, vita legale, illegale vita. Vita illegale e illegale vita, dicevano i Bloody Riot. Non ridico il nome perché tanto lo risbaglierò di sicuro, il Percivalli. Siamo a fine, infatti mi sa che l'ho risbagliato. Siamo a fine della trasmissione. Bene, adesso cosa si fa quando finisce la trasmissione? Si va a mangiare. Ci salutiamo. Ci salutiamo tutti insieme con un abbraccio. Ci salutiamo. Tutti mano nella mano. Mani nelle mani. Bene, siamo a fine. Marzocchi tocca, sta toccando. Che fa lei? Tocca? ok, siamo a fine. Che cazzo di canzoni sto mettendo io, tra l'altro? Sono metti canzoni già messe. Metto, è perché è bello fare la radio e mettere sempre le stesse canzoni. Ah, un caloroso saluto a... Caloroso, per modo di dire. Caloroso giù, quando si va giù alla stufa è caloroso, ora è un po' più freddoloso. Quindi sarà freddoloso. Salutiamo tutti. Ciao. Ciao. Ciao.